Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e bentornati a Mr. Kilowatt, che riparte oggi dopo la pausa invernale. Abbiamo intrapreso un viaggio a inizio novembre che ci ha portato attraverso alcune regioni del territorio del risparmio energetico, con una trentina di puntate o poco più, dedicate soprattutto alla dimensione domestica e alla dimensione del building, sia la palazzina di uffici che il condominio. Ecco, pur senza abbandonare questa direzione, nelle prossime settimane cercheremo invece di analizzare come l'efficienza energetica possa essere calata nella dimensione produttiva, raccontandovi casi di successo dalla fabbrica al ristorante al palazzo congressi al centro di calcolo. Si tratta di una sfida altrettanto importante non solo per le dimensioni del comparto, il comparto produttivo consuma la maggior parte dell'energia prodotta e consumata nel paese, ma anche perché l'efficienza energetica è un fattore che si traduce immediatamente in maggiore competitività per le imprese ed è una sfida ancora più complessa a causa della moltiplicazione delle attività e dei processi produttivi che vengono applicati, che sono moltissimi. Ecco quindi che nasce una questione di fondo che vogliamo affrontare subito stasera con il nostro ospite, Dario Di Santo, direttore di FIRE, ovvero la Federazione Italiana per il Risparmio Energetico. Buonasera Di Santo. Buonasera a tutti. Dunque Di Santo, la questione è questa: di fronte al livello molto elevato di polverizzazione del tessuto produttivo italiano, composto da migliaia e migliaia, decine di migliaia di piccole imprese, come si fa ad accedere alle competenze necessarie per gestire una qualunque procedura di, chiamiamola così, ristrutturazione energetica? Perché è molto difficile che una piccola media impresa possa permettersi all'interno del proprio organico le competenze necessarie. E allora, Di Santo, come si fa? Certamente, questo è un tipico problema italiano. Chiaramente non è facile, come per una grande azienda, proprio perché non riesco a dedicare una persona a fare il ruolo di energy manager. E che è la figura anche individuata per legge, che è proprio deputata alla gestione delle problematiche energetiche all'interno di un'azienda di grandi dimensioni. Sì, esattamente. E nello stesso tempo in queste piccole imprese io mi trovo di fronte a un mercato che fino a pochi anni fa non c'era, nel senso che fino a pochi anni fa nessuno si interessava veramente di efficienza energetica. Si sentiva anche meno l'esigenza, probabilmente. Esatto. I costi sono proprio aumentati, sono diventati una parte significativa ormai. E mentre per le grandi utenze nel frattempo si sono sviluppate le figure professionali e dei soggetti nel corso degli anni, sul piccolo è un qualcosa che si sta sviluppando in questi anni qua, proprio a partire da 2 anni fa, quindi ancora tutto da costruire. Ecco, allora, se pensiamo alla mensa, al negozio, piuttosto che alla piccola azienda di stampaggio, questi a chi si rivolgono? Non è un compito facile, però alcune indicazioni come bussola possono essere le seguenti. Il primo, la più ovvia, è trovare un consulente che operi in questo settore. Questo consulente si può trovare attraverso l'amico di turno che ha fatto la stessa cosa in un'altra impresa, si può trovare attraverso associazioni che operano nel settore, come può essere FIRE, ma ce ne possono essere delle altre. Si potrà trovare soprattutto un domani attraverso appositi elenchi, perché la normativa europea prevede nel tempo la certificazione delle competenze di questi soggetti e ad esempio la FIRE ha avviato un sistema che si chiama SECEM che certificherà le competenze di soggetti esperti a partire proprio da quest'anno. Potranno poi sorgere altre strutture che faranno la stessa cosa. Un'altra possibilità è quella di cercare una ESCO e quindi rivolgersi ad esempio alle associazioni di categoria delle ESCO come la GESI, l'Assoesco, la Federesco, e un'altra possibilità ancora è rivolgersi alle proprie associazioni di categoria industriali che, sebbene si stiano muovendo solo da poco, però stanno cominciando a cercare di istruire i loro funzionari locali e territoriali per offrire servizi anche in campo energetico. Tipicamente quali sono i filoni su cui ci si deve aspettare che venga proposto un intervento? Per esempio, io so che banalmente, anche questo è un tema molto interessante, a volte è sufficiente razionalizzare il contratto di fornitura già per risparmiare non energia ma comunque danari, ecco, questo sicuramente. Sì, allora, da una parte, come giustamente ha fatto notare lei, c'è l'acquisto di energia elettrica, gas e altri combustibili. Nel libero mercato è importante cercare il fornitore che dia la possibilità all'impresa di risparmiare. E non è banale, perché la formazione della tariffa energetica è complessa. Insomma, sicuramente è complessa. Una cosa da professionisti. tocca fare lo sforzo che si è fatto con, ad esempio, la telefonia mobile nel corso degli anni. Poi ci sono invece gli interventi gestionali, che non richiedono in genere grandi investimenti, ma richiedono che le macchine, ad esempio, siano regolate bene e utilizzate al meglio. Velocemente la terza gamba, se sono tre. Sì, sono cambio tre. Termine, perché sennò non vorrei che qualcuno pensasse. Ho interpretato male, comunque. Scusi. Sì, il terzo punto, diciamo così, è quello dell'investimento in nuove tecnologie, che possono essere spesso nell'industria collegate ai processi industriali, e chiaramente quindi significa assicurarsi che all'interno delle macchine di processo le singole componenti che consumano energia, come i motori elettrici per esempio, i compressori, le pompe eccetera, siano ad alta efficienza. Oppure possono essere quelle classiche come l'illuminazione, la climatizzazione degli ambienti, su cui si può intervenire con le nuove tecnologie, insomma. Va bene, grazie mille Di Santo. Grazie a lei. Per oggi è tutto, Mr. Kilowatt torna domani, stessa ora, per parlarvi di pompe di calore. Vi ricordo che potete scaricare le puntate di Mr. Kilowatt dal sito di Radio 24 e che la trasmissione ora è disponibile anche sotto forma di podcast. Buona serata!